Nel film Pane e Tulipani di Soldini si racconta di una madre di famiglia che, cogliendo con acume e coraggio l'occasione di essere stata dimenticata in un autogrill, si concede quella che soltanto sulle prime sembra una vacanza, mentre poi diventa un radicale mutamento della propria esistenza. Scappa dalla prigione dell'ottusità e dell'indifferenza familiare per affrontare la vita con uno sguardo tutto nuovo e per riassaporare la gioia dell'applicare categorie sopite. Al fianco di questa donna, dopo qualche vicissitudine un po' troppo comica, si viene a trovare un idraulico tanto senza lavoro da improvvisarsi detective, goffo e dunque triste, saprà anche egli cogliere al volo la prima possibilità di cambiamento che il destino gli riserverà. In Risorse umane di Cantè, il giovane laureato sembra avviato al successo sociale a spese del babbo e della classe operaia che costui malamente rappresenta. Tuttavia il giovanotto vede bene, vede alla svelta, vede lontano, tanto da saper rifiutare ciò che lo aspetta, cioè il disdegno di sé e degli altri, quella pozione di cinismo sufficiente e necessaria per la vita agiata. Suo padre stesso, Crumiro incallito, ritrovando il calore della solidarietà di classe, perché che ne dicano sociologi ed economisti, non è mai troppo tardi, si deciderà a picchettare la fabbrica. Marais in francese sta per palude. Lungo la costa atlantica c'erano un tempo due regioni alluvionali che vennero nominate Marais, e il Marais bretone e il Marais poitevin o del Poitou. La loro bonifica è storia lunga, tanto credo da iniziare fin dall'undicesimo secolo e finire più o meno negli anni 30 del secolo scorso. I ragazzi del Marais di Becquerel racconta anche di un tale che nelle paludi ci è vissuto libero e felice, che poi se n'è andato, che con le sue mani si è costruito un impero di fortune e che quindi torna da dove è partito giusto per ridarci un'occhiata. All'impatto, tuttavia, risente il gusto perduto della libertà di un tempo e pur di non dimenticarlo più, riterrà fin leggero il sacrificare qualcosa. Qualcosa come la vita, non so se mi spiego. Sono storie raccontate da film, tutti realizzati più o meno in contemporanea, e la tentazione di rilevarne questo elemento in comune è forte. Se ci raccontiamo vicende in cui qualcuno non ce la fa più nella normalità che gli è toccata in sorte, un motivo ci sarà. E se non sbaglio di grosso, può far perfino ben sperare. Al cospetto del cambiamento di sé, nella consapevolezza del tempo che passa e dei mali che insidiano la convivenza tra gli esseri umani, il costo della stabilità risulta esorbitante. In un mondo zeppo di contraddizioni, rimanere con il sederino al caldo costa troppo. Troppi sono gli sguardi da evitare, troppi sono i pensieri da non fare, troppe le logiche conseguenze che è consigliabile non tirare prima di arrivare a casa e accendere la televisione in attesa di farla finita con la giornata e senza accorgercene con il tempo che ci è stato dato su questa terra. La lingua del narratore batte sul dente cariatissimo della rispettabilità sociale. Alla madre di famiglia, al giovane che cerca un lavoro fisso, all'operaio sfruttato e al padrone sfruttatore tornano i conti fino a che stanno al loro posto, fino a che assecondano il mansionario insignificante del ruolo che una forza che sembra trascenderli ha assegnato loro. Nel momento in cui, per scelta, si infilano nel varco della ribellione, si sentono per la prima volta costruttori dell'unico mondo di cui erano in attesa. E le relazioni umane diventano leali, la propria individualità è tollerata, perfino amata. Se ci se le racconta, queste storie, vorrà pur dire che se ne sente il bisogno. Se le si racconta a nostra volta, chi lo sa che questo bisogno non si diffonda.